Ah, yeah, prima di commentare, sempre a commentare. Ve do un consiglio, sta roba sentitela fuori da casa, pompatela in giro. Dovete essere orgogliosi di sta musica. Non è più roba tipo Battisti, quella. Adesso è questa la musica italiana, la vera musica popolare. E voi che state il popolo dovete pomparla. Vai così, Mad Men, Jamie Tights. Ok, hater proof. Mischio il disagio con il quotidiano. Siamo sul mio divano, coi bicchieri vuoti in mano. Porta bottiglie finché vomitiamo. Fumo nei polmoni, occhi asiatici come con Kitano. Zombie del red carpet, corro senza le scarpe. Fuori bianco, dentro negro come Ben Harper. Siamo pesci grassi, mento peschi le carpe. Brucio le tappe, sopra la tua fronte c'è il target. Me ne foto se non ti piaccio. Cammino dentro che faccio, dove l'ambiente se faccio. Giro con gente che sembra che sia appena levata il laccio. Che alla barista gli dice dammene 10 e senza ghiaccio. Rap tecnico come Rooney, bello come Clooney. Talmente vero che scrivo in Blu-ray. Blau, today it's a new day. Faccio onde d'asfalto come la crew, ehi. Blau, questo qua è rap. Mica quelle parrucate che fai te, ahimè. Blau, questo qua è rap. Sempre un passo avanti a tutti fra high tech, high tech. Questo qua è rap. Mica quelle parrucate che fai te, ahimè. Blau, questo qua è rap. Sempre un passo avanti a tutti fra high tech, high tech. Mani super mad, faccio super rap. Ma non so cambiare il mondo tipo Zuckerberg. Sentimi per un istante e non ti illudere. Voglio fare più ristampe di Gutenberg. Mi bastano 5 minuti come l'UX. Quando parto sui beats, scarico full clips. Insieme a Jam, dalle Jam, ora cool kids. Quando i fans scattano le foto con le cool pics. Oh, alcol tester. Se salgo in alto non mi fermo, manco Madness. Bro, beccami sul palco alle feste. Ci fumiamo più eteri che in un parco equestre. Bella per l'amica che mi hai presentato. Peccato che il mio cervello l'abbia resettato. Bevo il sesto pigna colada, finché ogni cesso somiglia a Cleopatra. Bravo, questo qua è il rap. Mica quelle parrucate che fai te, ahimè. Bravo, questo qua è il rap. Sempre un passo avanti a tutti fra high tech, high tech. Questo qua è il rap. Mica quelle parrucate che fai te, ahimè. Bravo, questo qua è il rap. Sempre un passo avanti a tutti fra high tech, high tech. Bravo.